Signore e signori, gentili e meno gentili ascoltatori di Runtime, sono Alex Arcuglia e ho il piacere e l'onore di presentarvi l'app di Runtime per iOS. L'app di Runtime Radio per iOS consente di ascoltare tutte le puntate di tutti i nostri podcast on demand e, naturalmente, anche la diretta in streaming. Nell'app è possibile segnare come preferite alcune trasmissioni, che verranno dunque visualizzate in alto nell'elenco degli show. L'app è in continua evoluzione e nuovi aggiornamenti verranno rilasciati regolarmente e di frequente per raggiungere sempre nuove funzionalità e, nell'immediato futuro, anche entrare in contatto con gli autori. L'app di Runtime Radio è sviluppata da Ultimedia ed è disponibile per iPhone con sistema operativo iOS 14 e successivi. Cerca l'app di Runtime nell'App Store digitando Runtime Radio. E se ti piace, non dimenticare di scrivere una bella recensione. Buongiorno! Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità! E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No? E se non sta un metro e mezzo, no? Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Andata la fascia, pezzo di merda! Pezzo di merda! Ma te sputo, che fai? Buongiorno! Buongiorno, un cazzo! Runtime Radio! Ne fa un'altra! Mamma mia, stasera ci è mancata tantissimo, una cosa terribile, però più l'ascolto e più mi rendo conto che sì, è carina, ma andrebbe un po' snellita e poi forse andrebbe anche un po' svecchiata, visto che stiamo parlando di cose che sicuramente fanno parte di un altro periodo, di un altro momento della nostra vita, che però insomma è sempre presente, ancora fa parte di noi. Intanto entrano in regia, vedo che ci sono movimenti, il che significa che è arrivata la colazione, ma oramai la colazione dovrà aspettare perché giustamente è iniziata la diretta. Prima di parlare bene di Book, volevo intanto ringraziare Leo Vargion, perché con questa sua moltiplicazione, diciamo, delle sue trasmissioni, vi ricordiamo che il mattino loro in podcast non ci sarà più soltanto il martedì e il giovedì, ma adesso ci sarà il lunedì, il mercoledì e il venerdì, quindi 3 giorni a settimana, tranne ovviamente ieri e la prossima settimana, lunedì prossimo, perché ovviamente ha degli impegni che lo portano fuori. E comunque con questa sua iniziativa, con questa sua idea, ha portato praticamente lo stimolo anche a me e Michela di provare a aggiungere, diciamo, altre trasmissioni live, portando praticamente Runtime Radio a fare quello che fanno tante radio vere, no? quelle grosse, quelle importanti, ossia praticamente di avere trasmissioni live alle 7 di mattina per dare praticamente il buongiorno un po' a tutti coloro che magari piano piano prenderanno l'abitudine di ascoltarci mentre che siamo, che ne so, preparando la colazione, stiamo per uscire, stiamo per andare da qualche parte. Intanto salutiamo ovviamente il grande DJ Joker, che infatti sicuramente lui si sta per preparare ad andare a lavorare, quindi magari in questo momento è seduto sul trono, insomma, da qualche parte ovunque sia seduto. E, dicevo, ci ha dato appunto lo stimolo di coprire quasi tutte le mattine della settimana con delle trasmissioni, quindi fondamentalmente già ve l'ho detto, il lunedì, il mercoledì e il venerdì ci sarà Leo Varghion con Buongiorno un cazzo dalle 7 alle 8, sì, con il mattino allora in podcast dalle 7 alle 8, io il martedì appunto con Buongiorno un cazzo sempre dalle 7 alle 8 e Michela dalle 7 alle 8 anche lei il giovedì, giusto, sì, il giovedì con il suo nuovo programma che si chiama Disorganizzati Informati, che anche lei farà degli approfondimenti forse anche un po' più articolati, più strutturati rispetto a quello Disordinati Informati. Purtroppo ho detto giusto. Qui mi fanno sempre suggerimenti dalla regia che lei fa magari degli approfondimenti forse un po' più strutturati cercando un tema a settimana. La stessa trasmissione ritorna però anche il sabato mattina dalle 8:30 fino alle 9:30, dove ci alterneremo o io a lei oppure faremo qualcosa anche tutti e due insieme. Quindi questo è un po' il primo passaggio di Runtime Radio che riguarda ovviamente la mattina. Davide, ossia DJ Joker, ci conferma che in effetti stava cagando e giustamente ha protestato invece il nostro caro amico Alessandro che dice che sta a far colazione, quindi essendo in fascia protetta non bisognerebbe parlare di queste cose, ma in realtà la mattina è forse il momento più zozzo della nostra esistenza, dove dobbiamo alzarci, lavarci, sgrassare di dosso le bestemmie. Tra l'altro è stata una bella estate questa, finalmente dopo 2 anni io e Michela siamo tornati a, non a viaggiare è una parola grossa, diciamo a fare delle piccole tappe in posti dove abbiamo preso fresco, relax, ci siamo abbandonati al silenzio, a noi stessi, e ci siamo anche goduti la nostra cagnolina Scozia. Però se ci penso, insomma, alla fine mi viene la domanda e mi viene spontanea, ma poi dopo ne parliamo verso la fine. Quante cose vi hanno fatto incazzare quest'estate? Io ne ho viste tantissime, veramente ne ho viste veramente veramente tante. Ci sono cose che fanno veramente incazzare, ad esempio noi siamo stati in Toscana e non c'è niente da fare. Io mi rendo conto che in un posto dove pure di questo poi appunto ne parleremo, in un posto dove il turismo ti casca addosso, insomma ti permetti anche di avere un po' quell'atteggiamento un po' sfacciato, un po' arrogante, presuntuoso, quasi infastidito, no? E questa è una cosa che onestamente a me ha sempre fatto innervosire profondamente, e quest'estate questa cosa si è riproposta, e sempre successiva invece a un periodo di grande difficoltà, no? di pandemia, dove ovviamente alla fine successivamente a questa fase, in questo momento di crescita, di rinascita, diciamo così, di riapertura, dovresti comunque dimostrare di aver compreso il fatto che l'arroganza spesso non paga e dovresti cercare un po' in qualche maniera di accontentare, no? Di accondiscendere, o perlomeno quantomeno essere gentile, no? Cioè, la pandemia avrebbe dovuto insegnarci ad essere gentili. E ha fallito in questo sicuramente, e purtroppo ha fallito anche tanto, insomma, cioè molto più di quanto io mi aspettassi. Ma comunque non è di questo che volevo parlare in questa puntata, perché come ho detto questa è una puntata provvisoria dove volevo introdurre un po' le novità. Vi ho spiegato quello che succede la mattina, vi spiego anche quello che succederà in generale in Runtime, dove alcune trasformazioni ci saranno sicuramente, ci saranno delle trasmissioni che continueranno e saranno completamente dedicate e progettate per essere live, e ci sono alcune trasmissioni che abbiamo fatto live la scorsa stagione che invece torneranno ad essere prevalentemente podcast. Ricordiamo anche che il core fondamentale della nostra struttura di Runtime Radio, di Runtime per quello che è stata progettata, è e resta il podcast, quindi ovviamente vi invito sempre ad andare su Spreaker e trovare, ovviamente cercare Runtime Radio, e troverete tutti i nostri show che sono comunque in crescita. Ci saranno delle nuove trasmissioni quest'anno, alcune pensate appunto per essere podcast e poi ritrasmesse in radio, alcune invece pensate proprio per essere preparate proprio per il live. Noi abbiamo la fortuna di avere appunto un buon team, diciamo, insomma una buona partecipazione, e più riusciremo a coprire fasce orarie anche con le live, e più insomma potremo proporci veramente come realtà, come broadcaster, in maniera un po' più seria di quanto abbiamo fatto fino adesso. E il problema è che Runtime, come tante delle nostre realtà, deve arrivare a un punto in cui si deve fare quella famosa domanda, no? Cioè dove dobbiamo andare? Per andare dove dobbiamo andare, da che parte dobbiamo andare? Noi o volevans war, diceva qualcuno, e insomma noi ovviamente cercheremo di seguire quest'orma, cercheremo di portare trasmissioni tecnologiche così come è sempre stato, trasmissioni di opinione, trasmissioni anche di incazzatura magari come queste, e trasmissioni magari di riflessione un po' più a largo campo. Cercheremo anche di coinvolgere magari anche realtà affine, compatibili con noi, magari di cercare insomma di lavorare, di collaborare, di costruire appunto sempre più elementi. E questa è una cosa abbastanza importante. Quello che vi ricordo è che lunedì sera, quindi il prossimo lunedì, torna alle 20, alle 21, scusate, adesso sono sempre le 7 mattina, non sono proprio abituato, alle 21 torna OGM, che ha una grande novità, cioè la grande novità è che non ci sarò più io, così come non ci sarò più in tanti altri programmi, perché io mi concentrerò appunto su Book, dove ovviamente insomma avrò da preparare delle puntate, avrò da strutturare delle puntate, ma mi concentrerò anche su Quando eravamo futuro, che ricordo insomma la prossima settimana ritorna alle 21.30 sempre su www.rantemeridio. Vi ricordo che poi potete interagire con noi sempre tramite telegram.me/dirette-runtime, e vi ricordo che la prima puntata di Quando eravamo futuro sarà dedicata, non so se avete visto la teaser, l'immagine teaser di una Moana d'altri tempi, insomma parleremo di porno, e quindi insomma sarà una puntata che difficilmente merita di essere persa, e mi auguro insomma che sarete qui con noi ad ascoltare questo programma. E poi ci sono delle altre idee, vediamo un attimo, c'è un progetto, diciamo una cosa che non siamo mai riusciti a fare su Runtime Radio, che non c'è stato mai modo, o abbiamo sempre fallito in questo, perché non è una cosa tendenzialmente facile, ma difficile, perché più della politica secondo me in qualche maniera innesca dei meccanismi di odio razziale quasi, che insomma ti dico levate, ossia avere un programma sportivo. Ora torno, che vi dico, vi parlo di Book. When I have come with a happy heart to 60 years and 10 I'll buy a boat and sail away upon a summer sea. from men. In peace and praise I spend the days the gods allow to me. For I am weary of the strife so pitiless and vain. And in a far and fairy eye bewilderingly bright, I learn to know the lip and glow of rapture once again. And welcome every living down with wonder and delight. Above the singing foam, with brooding knees where joyously rich roses climb and clink, with crescents in a double row like wine and honeycomb, and flame trees dripping golden rain and palms. And there I let the wind and wave do what they will with me, and I will dwell unto the end with loveliness and joy, and drink from out a crystal spring and eat them of the tree. As simple as a savage is, as callous as a boy. Oso canzoncine, così trovate su Creative Commons, su Giamendo, nella fascia indie, quindi sa questo rocchettino indie un po' pop, un po' così, che alcuni piace, alcuni non piace, però insomma servono un po' per staccare, anche perché, come abbiamo detto, cercheremo di dedicarci sempre di più su quello che è la fascia Creative Commons, fino a che ovviamente non avremo deciso insomma cosa fare del nostro futuro, anche perché insomma ci piace fare la radio pirata, però poi dopo alla fine se un giorno se arriva qualcuno che si incazza, diciamo che potrebbe non essere cose belle. Di che cosa parleremo in... intanto adesso proviamo a fare un attimo un'interconnessione, vediamo se ci riusciamo, perché sapete che ci sono i nostri tempi a livello di regia. Prova. Vedete già, cioè, nel senso, mi rovinano le trasmissioni qua. Prova. Non sei quello, sei quest'altro. 1, 2, 3, esatto, prova. Perfetto. Allora, dato che appunto ne approfitto un secondo prima di parlare di quello che parlerò in Buongiorno in Cazzo durante tutta questa stagione, ci saranno insomma dei temi che voglio affrontare in maniera un po' collaterale, nel senso che più che degli eventi o delle situazioni io vorrei parlare proprio dei concetti, di cose che insomma... andare proprio nello specifico di quello che significa una certa cosa piuttosto che un'altra, e però insomma non eviteremo poi di raccontare anche cose che ci sono capitate e che chiaramente prendono, cioè dalle quali noi prendiamo spunto anche per poter discutere. Per esempio, nelle prime puntate di Buongiorno un Cazzo noi parleremo, cioè io parlerò perlomeno del Green Pass, dell'accoglienza, quindi del turismo, del modo in cui abbiamo affrontato quest'estate, il modo in cui si è comportata la gente, i liberi tutti, tutta una serie di determinate cose, per arrivare poi a temi più specifici di cui poi dopo vi parlo. Però abbiamo detto insomma che il giovedì e il sabato mattina c'è anche Michela, che poi tra l'altro l'idea ce l'ha avuta lei vedendo Vargion che ha esteso diciamo le sue dirette a tre, ha detto ma perché non lo facciamo anche noi. Michela giustamente ha detto eh sì. Buongiorno a tutti, buongiorno un cazzo, infatti buongiorno un cazzo a tutti. E sì, in realtà l'idea era quella, nel senso che vedendo Leo che comunque aveva lasciato queste finestre aperte per due giorni, gli aveva comunque riempito abbastanza la settimana, ci siamo detti, ma perché, dato che noi siamo ultra mattinieri, nel senso che ecco, io stamattina alle 5 e mezza ero già... Eh sì, da quando c'è il cane in particolare, sì, no? E quindi abbiamo detto, perché non ci alterniamo anche noi. L'impegno ovviamente, quello di Leo, è molto più gravoso. Esteso. Sì, e ovviamente noi, cioè io sicuramente riesco a fare uno, para due giorni a settimana, il sabato riesco sicuramente a farlo, ma non sempre, insomma. E, per esempio, nei prossimi due fine settimana abbiamo degli impegni e vedremo un po', insomma, sì, ma... magari faremo un itinerante, lo faremo itinerante, insomma. E c'è Potremmo anche inventarci di fare la live in movimento, in mobilità, possiamo farlo, abbiamo la tecnologia per farlo. Sì. Si può, allora lo faremo da Parma. Esatto, potremmo farlo da Parma. La casa di Parma, esatto, se, esatto. Se la linea ci consente di farlo. Esatto, insomma, vediamo, questo adesso ci organizziamo tutte le cose, poi vi aggiorniamo su Telegram, su Twitter. Magari questo sabato ti lascio a te il programma, perché io ho uno stage. C'hai da fare, va bene. Sì. E poi il prossimo lo faremo insieme, quello dopo ancora prenderò io le redini. Allora, di che cosa parlerai nel tuo programma che si chiama Disordinati Informati? Disordinati Informati, mi raccomando, ragazzi, è tosta. Ma prima o poi ce lo impareremo. Nel senso che per te è disorganizzati informati, però. Ma sai quando ti entra una cosa nel cervello male? Però dai, il logo è scritto corretto. Sì, meno male. Allora, Disordinati Informati in realtà è un format in divenire, nel senso che ancora dobbiamo imparare come si fanno le rassegne stampa. E comunque la raccolta dei, diciamo così, di quello che può essere l'argomento principale del giorno. Sicuramente diciamo così, il format che ho pensato, che poi andrà in qualche modo costruito con voi, è quello di interagire tra di voi nella notizia principale che proporrò, laddove riuscirò a dare più o meno tutti gli aspetti più o meno evidenti di una notizia, e poi comunque una ventina di minuti dedicati comunque alle notizie più divertenti e più belle e più positive della settimana, o comunque che abbiamo raccolto, che comunque ci aiuteranno ad affrontare un po' meglio la giornata, perché purtroppo le notizie non sono mai bellissime, soprattutto in questo periodo e soprattutto in questo mondo in cui viviamo adesso. Scusate, c'ho il... Però diciamo che tendenzialmente tu vorresti fare un programma che di base c'ha un tema. Sì. A puntata, e poi c'è questa parte finale, sì, che magari cerca un po' di raccogliere, tira e su. Poi soprattutto se magari gli ascoltatori in qualche modo vogliono partecipare o perché interagire, magari si sentono particolarmente pronti sul tema della giornata, ben venga, e cercheremo di ritornare, magari questo ci vorrà qualche settimana, insomma, però vorrei ritornare un po' alle trasmissioni che facevamo anche prima, cercando di coinvolgere professionisti o comunque persone che disposte comunque a raccontarci la notizia. Alle 7 di mattina? No, magari le registriamo. Ah beh, certo. E però tu hai anche un altro progetto di cui però per ora non parliamo, perché aspettiamo insomma che prenda piede, insomma, c'è, sì, l'idea. Sì, sì, sì, no, l'idea c'è, il progetto c'è, deve essere solo messo in atto, che è quello di una trasmissione dedicata al mondo animale, okay, in generale. Allora, se Leo Varghion con il Mattino Loro in Podcast il lunedì, il mercoledì e il venerdì, vi ricordo, insomma, fa tre tipi di temi diversi, però basati sulla riflessione, sul racconto. Su Buongiorno un cazzo cercheremo invece magari di esternare certe cose, anche magari insomma anche insomma cercare di attenuare la rabbia per altre cose, e quindi un buongiorno un po' più, come posso dire, un po' più caustico. Invece in il venerdì con disorganizzati informati, disordinati informati, il giovedì, giuro, me lo scrivo la prossima volta così almeno ce l'ho davanti. Il giovedì praticamente avremo appunto dei temi. Certo, uno può pensare alla trasmissione un po' alla radio DJ, no? Il buongiorno, gli diamo il buongiorno, buongiorno. Purtroppo ragazzi, il buongiorno è fatto anche di elementi di riflessione che possono anche accompagnarci durante tutta la settimana. E nel primo episodio, quello di giovedì, appunto, Afghanistan ovviamente non poteva essere, insomma, perché tra i vari eventi che hanno contraddistinto questa estate, tra l'altro ieri leggevo il comunicato ufficiale del Pentagono all'ultimo, cioè l'ultimo aereo partito. Senti gli specchi arrampicati. Sì, tipo sono finiti 20 anni di guerra. Cioè non sono finiti 20 anni di guerra. L'avete lasciati nella merda. Complimenti. Vabbè, ma ne parliamo appunto domani. E grazie Michela, quindi no, domani, no, giovedì, sì, vabbè, scusate, piano piano ci... una caraffa di caffè a quest'uomo. Sì, esatto, devo fare colazione prima di fare la trasmissione, sì. E dopo poi fare la trasmissione, allora diventa un po' difficile, però vabbè, ci sta insomma a prendere un attimo il ritmo anche per quanto riguarda il discorso insomma della. Va bene, grazie Michela, ci vediamo, grazie a voi, giovedì, e ci vediamo fra poco io e te insomma a fare colazione. Esatto, perché Runtime Radio è la radio di casa nostra, insomma. E, ok, invece la mia idea, appunto, come vi ho detto, insomma, è quella di fare una trasmissione che non parli degli eventi in sé, cioè nel senso gli eventi possono anche essere trattati, chiaramente, però possono essere semplicemente di spunto, diciamo così, perché io vorrei parlare, per esempio, tra i vari temi, di sovranismo. È un sovranismo, per parlare di Salvini che fa le dichiarazioni. Che significa il sovranismo? Cioè, cosa è la conseguenza e cosa comporta fare delle scelte, diciamo, di disgregative, ecco, quindi parleremo anche di disgregazione, no? Chi ci guadagna la disgregazione? Perché oggi in un contesto di grande ignoranza generale, ovviamente un'ignoranza anche programmata, perché insomma dopo 30 anni di distruzione della scuola è chiaro che oggi insomma la gente ha una capacità di pensiero critico veramente basico, e quindi ovviamente tende anche a credere, diciamo, alla voce del padrone che la fa più grossa, no? Cioè quello che strilla più forte, no? E la disgregazione e quindi tutti gli effetti di conseguenziali, compreso ovviamente magari diciamo derive antiumanitarie o autoritarie o comunque sovraniste, hanno, cioè nel senso, sono il frutto della stessa conseguenza, possono portare agli stessi tipi di risultati, ma soprattutto sono sempre a beneficio di qualcuno, perché quando noi pensiamo che c'è un politico che ci sta raccontando la cosa che è meglio per noi, ricordate che in generale questa cosa non funziona. Ma parleremo anche di accoglienza, facendo anche ovviamente un confronto fra due realtà, fra due mondi, che sono quelli degli anni 60-70 con quello che è la realtà attuale, perché oggi l'accoglienza è diventata un grosso problema, perché ovviamente oggi facciamo fatica a pensare in che modo possiamo sostenere le popolazioni in difficoltà. E c'è poi tutto un altro discorso anche basato sugli interessi, anche lì sempre un fattore economico, però poi perché ci sono persone che contrastano questo tipo di azione, facendo leva ovviamente su quello che è un sentimento di pancia, anche questo derivato un po' dall'ignoranza e dalla paura. E la paura è un altro degli argomenti di cui tratteremo, cioè parlare di paura significa riuscire a capire anche atavicamente, anche antropologicamente, di cosa l'uomo ha paura e quanto un certo tipo di linguaggio riesce a fare leva ovviamente su, sempre tramite l'ignoranza, è uno strumento fondamentale, sembra l'ignoranza sembra una condizione, in realtà è uno strumento come riesce a fare leva ovviamente sulle persone, anche quelle persone che magari di impatto di sostanza si sentono sostanzialmente le persone amichevoli, ecco, diciamo così, sono magari si sentono solidali, si sentono generose, e che invece poi alla fine comunque di fronte a determinate situazioni, di fronte a questa condizione di paura che viene un po' indotta, alla fine si comportano in maniera diversa. Parleremo di violenza, ma la violenza nel senso più lato possibile, non parliamo di schiaffi, di botte, di violenza sessuale, di aggressioni, ma parliamo di quello che è il linguaggio relativo alla violenza, perché la violenza è un seme che si inserisce nella grammatica della nostra, della nostra società prima ancora che nelle azioni, perché anche qui le azioni sono sempre una conseguenza di tutto quello che è ovviamente il discorso di passare poi a una fase d'azione. Oggi la politica è fatta con, anzi, la violenza nel linguaggio politico si è istituzionalizzata. Una volta era una cosa molto stigmatizzata, no? C'era chi magari utilizzava un certo tipo di linguaggio, ma veniva fortemente stigmatizzato. Ecco, oggi la violenza è assunta a sistema, dove praticamente tramite gli strumenti, quelli che facilitano molto di più questo tipo di comunicazione, tipo, quindi ovviamente tramite i social, che diventano la voce, diciamo, di questi politici che ovviamente non hanno tanti scrupoli e ovviamente cercano di portare avanti questo tipo di messaggio nella stessa maniera in cui lo fanno gli altri, cioè invece di aiutare la gente ad elevarsi ad un linguaggio critico e ad una cognizione politica, è la politica che si abbassa per raggiungere quel pubblico che ovviamente viene alimentato, fomentato da questo tipo di linguaggio, da questo tipo di atteggiamenti. Quindi, come vedete, di argomenti ce ne saranno tanti, poi probabilmente saranno alcune cose che nella trasmissione del sabato che faccio in alternativa con Michela, o magari capiterà che la faremo insieme, saranno delle cose che coincideranno con il suo punto di vista e il mio punto di vista, perché ovviamente lei giustamente, come ha detto, parte da una rassegna stampa, quindi da un aver comunque trovato la notizia importante della settimana e discutere su quello. Io invece magari mi focalizzo proprio sul contesto, proprio sulla anche dal punto di vista proprio del significato proprio più stretto delle cose, quindi cercando, insomma, di capire in che maniera queste poi si ripercuotono nella nostra società. Detto questo, io penso, insomma, di avervi dato quantomeno un'innaffiata di quello che sarà Buongiorno un cazzo durante questa stagione, una stagione che mi impone di lavorare ogni settimana ad una nuova puntata, e questo ovviamente è un motivo di stimolo, anche perché giustamente, come diceva Michela, noi ci alziamo comunque presto, e a quel punto perché sprecare questo momento, insomma, in cui poi in realtà il nostro cervello è particolarmente attivo, perché dopo poi si abbioccamo durante il resto della giornata. Comunque insomma, ricordatevi, insomma, che Runtime Radio sempre più live, sempre più radio, perché ogni mattina, tranne la domenica, saremo live per voi. Detto questo, io ringrazio a tutti, grazie della vostra partecipazione, grazie di essere stati qui ad ascoltarmi. Il fatto che ci sono stati anche due o tre commenti mi fanno anche piacere, perché vuol dire che qualcuno ha fatto colazione ascoltando la nostra trasmissione. Come ha detto Michela, anche per quanto riguarda Buongiorno un cazzo vale l'idea dei suggerimenti, cioè se avete comunque delle idee, degli spunti, un qualcosa che volete che venga affrontata all'interno della nostra trasmissione, o che magari vi va di interagire tramite un tema che vi è particolarmente caro, insomma, fatelo tranquillamente, scrivetemi a me in privato o direttamente qui su Dirette Runtime. E salutiamo anche Davide, che è giustamente DJ Joker della che ovviamente è sempre qui presente. Scusa DJ, ma non mi ricordo Revolve Radio, ecco, abbi pazienza Davide, ma stavo veramente un po' rincoglionito. Grazie a tutti e alla prossima, ciao.